Scorso weekend, dal 22 al 25, si è celebrato il 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden, questa località montana del Tirolo, con questa kermesse che ancora una volta si conferma come uno dei festival più validi dell'Europa per novità e quantità di proposte. E quindi questo festival va da sé e mette di tanti pellegrini delle Blue Note che vanno a consultare il festival per sapere cosa si muove nell'ambito delle musiche creative. In verità, come Radio Città Fujiko abbiamo seguito passo a passo questa iniziativa sia con recensioni on air che con le singole descrizioni sul sito giorno per giorno, dove cercavano di spiegare cosa accadeva sul palco. Ora, a cose concluse e a ferro ancora caldo, cerchiamo di trarne un bilancio con Sandro Baroni, che ci commenterà i singoli concerti, quelli più interessanti, perché sono oltre 30 i concerti ascoltati, e soprattutto magari con qualche reportage audio, quindi dei spezzoni dei concerti medesimi. I concerti, sappiamo, si svolgevano in diversi ambiti, dal main stage, che è il grande teatro, fino ai shortcuts, che sono il teatro più piccolo, sono i momenti più sperimentali, poi gli Alm Concert, i concerti in alpeggio, e i City Concert, i concerti per la piazza del paese, gratuito, aperto a tutti. Così nasce questo Salpino speciale, via alla sigla. Saalfelden, Saalfelden. Saalfelden, Saalfelden. Saalfelden, Saalfelden. Saalfelden, Saalfelden. I Shortcuts hanno visto il primo concerto con musicisti austriaci, musicisti locali, che sono sicuramente stati anche una buona sorpresa. Il nome più importante, anche il più conosciuto probabilmente in Austria, è un trombettista, Lorenz Raab, che ha già una notevole esperienza. Guidava un trio, un suo progetto con un trio, lo accompagnavano due giovani, un tastierista e un percussionista, un batterista. E un entusiasmo notevole, una musica che si rifà al Miles Davis. Sicuramente Miles Davis è un po' il padre protettore di questo percorso, però i giovani, soprattutto il giovane tastierista, ha rivelato un interesse, una curiosità anche per sonorità diverse che ricordano più l'esperienza di King Crimson, o comunque anche questo mondo di percorsi elettronici lungo la storia di quella che è stata anche la musica del rock dagli anni 70 in poi. Anche il batterista, interessante per la sua frammentazione ritmica, ha un drumming che lo personalizza con una sorta di interruzioni che danno una dinamica particolare anche all'evoluzione del brano. Thank you. secondo il gruppo successivo, è stato un progetto guidato da Bobby Previtt, che sicuramente Bobby Previtt non ha bisogno di presentazione, ormai è un veterano sulla scena internazionale, è già una trentina d'anni che si propone come uno dei nomi di punta delle avanguardie, soprattutto newyorkesi. In questo caso guida un gruppo di musicisti italiani, perlomeno il progetto è chiamato Plutino, e lo accompagnano al baritono Beppe Scardino e alla chitarra elettrica Francesco Diodati. E poi si è aggiunto inaspettatamente anche un sax tenore, un giovane austriaco che vive spesso negli Stati Uniti e che quindi conosceva Bobby Previtt, che l'ha chiamato appunto a partecipare a questa performance. E è una musica, come nel disco, che risente di una certa sudditanza alle strutture ritmiche che propone Previtt, forse troppa sudditanza, nel senso che i musicisti poi si muovono in un recinto forse troppo stretto, quindi con una serie di frasi ostinate che alla lunga possono dare anche una sensazione di ripetizione, di poca dinamica. Mi sembra un po' un progetto scritto con la mano sinistra da parte di Previtt. Di Radio Città Fujiko sul 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden. Le note di Sandro Baroni sui concerti. Il concerto successivo è stato probabilmente sarà una delle punte maggiori probabilmente di questo festival, l'incontro, un incontro che è frequente, e quello di Tony Malaby, sassofonista tenore straordinario, con Tom Rainey, batterista, e entrambi più o meno della stessa generazione musicale, quantomeno iniziano all'inizio degli anni 90 il loro percorso, sempre di ricerca, sia nella timbrica che nel fraseggio, questo sia da parte del batterista che di Malabi. Il risultato è straordinario, la percezione è di una performance di dialogo effettivo, di ricerca, di attenzioni e di umiltà che danno risultati, a mio avviso, di altissimo livello. Naturalmente questo con questo atteggiamento comporta anche la possibilità dei due musicisti di esprimersi compiutamente. Interessante a mio avviso il suono di Tony Malabi, che fa risentire la storia del sassofono tenore da Coleman Hawkins a Coltrane, a Rollins, ad Archie Shepp, ad Eiler. È un sassofono ricco di suggestioni. Diciamo che la nota falsa, ma probabilmente può essere vissuta solo come provocazione, è un duo di un chitarrista giapponese, chitarrista o performer, una o una, non si capisce neanche il sesso, visto anche il look che presenta, forse questo è anche voluto, Eiki Kikano, che vede anche la presenza alla tromba, elettronica naturalmente, di un musicista austriaco, Franz Hutzinger. Franz Hutzinger peraltro ha anche una lunga esperienza di lavori più classici, anche è per esempio uno dei militanti nella Nouvelle Cuisine, questa formazione orchestrale che è stata una sorta di nave scuola per musicisti austriaci e che ha avuto notevole importanza e ha tuttora, per quanto ne so. I concerti nel teatro principale sono stati veramente di un livello altissimo. Ha cominciato un musicista, un giovane pianista, giovane ma insomma comunque già affermato, pianista austriaco, David Elbock, che francamente non era certamente tra quelli che, dai quali mi aspettavo cose importanti, perché ha un pianismo piuttosto lirico, piuttosto anche autocompiaciuto in diverse occasioni, pur avendo una tecnica e una qualità di suono apprezzabili. E questo pianista incontra un trio abbastanza classico per Tony Malaby, che è un tuba trio. Infatti Tony Malaby è al sax tenore, Marcus Royas alla tuba, e alla batteria si aggiunge un musicista, un giovane batterista tra i più interessanti delle nuove generazioni europee, il berlinese, perché almeno quantomeno milita e lavora a Berlino, Christian Lillinger. Questa musica ruvida che propone il trio di Tony Malaby nell'incontro con il lirismo di Elbock danno un risultato decisamente apprezzabile. È stato un bellissimo concerto anche per le qualità dei musicisti, che pur nella loro personalità esprimono livelli di alto livello. Thank you. Speciale di Radio Città Fujiko sul 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden. Le note di Sandro Baroni sui concerti. Il concerto successivo, a mio avviso, è stato una sorta di evento straordinario, un concerto bellissimo. E la formazione orchestrale di Marc Ducret, questo progetto Tower Bridge. Marc Ducret propone da tempo un progetto in più parti chiamato Tower, ispirato peraltro al romanzo di Nabokov, Ada, non so bene come, ma insomma comunque questo è, e questo progetto vede un primo capitolo, un primo disco che è uscito già da qualche tempo in quartetto, un secondo capitolo in quintetto, un terzo capitolo in sestetto e un quarto capitolo in chitarra solo. In questo caso Ducret raccoglie musicisti che hanno lavorato nelle formazioni più o meno piccole e con una struttura di composizione che raccoglie appunto queste tre esperienze, i primi tre capitoli, assembla e propone una formazione orchestrale di altissimo livello, con una musica estremamente densa e anche, come dire, impegnativa nell'ascolto, perché la partitura è la parte più ricca del lavoro, ma la dinamica che riesce a sviluppare poi questa formazione e anche quindi l'arrangiamento che ne è stato dato è di livelli veramente eccelsi. Thank you. Un discorso completamente diverso, pur di qualità, è quello di Scott Colley, un contrabbassista sicuramente tra i più bravi, con una sonorità del suo contrabbasso è straordinaria, una leggibilità assoluta, un suono rotondo e bellissimo. Si è presentato con il suo quintetto, il solito Ralph Alessi, che è l'unico dei musicisti che è costante nelle formazioni che propone Scott Colley, che di solito le cambia continuamente nelle sue proposte di combo, insomma, di piccola formazione. Qui viene accompagnato da musicisti di alto livello, ognuno poi per la sua strada, nel senso che ognuno rappresenta capitoli diversi di questa, della compagine dell'attuale jazz. E lo accompagnavano appunto Adam Rogers alla chitarra, un chitarrista che è stato tra i primi accompagnatori dell'esperienza, della crescita di Dave Binney, e che appunto ha quasi condotto una sorta di percorso che ha portato dall'ambient music molto spigolosa che aveva alla fine anni 80, perché di questo poi di questi anni si parla, fino alla verso la fine degli anni 90. Qui continua a proporsi con questa sua fraseggio molto che ricorda più il fraseggio di uno strumento a fiato che non gli stilemi della chitarra elettrica. E un giovane pianista, nuova promessa, decisamente interessante, Kevin Eyes, e alla batteria Antonio Sanchez, bravissimo Antonio Sanchez, che ancora una volta conferma le sue qualità di percussionista raffinato. Quindi sono tutti musicisti che si esprimono in quella che può essere definita la mainstream, ma a livelli notevoli, quindi il risultato è stato di ottimo livello. Thank you. Ecco, l'ultima proposta ieri sera è stata quella del quartetto, un nuovo quartetto che peraltro nessuno conosceva, ma comunque di nomi tutti importanti, un quartetto probabilmente guidato da Steve Bernstein, visto un po' le musiche e anche le intenzioni. Lo accompagnavano Sherrick Oskerick al sax tenore, e Charlie Hunter alla chitarra e Bobby Previtt alla batteria. Ecco, Charlie Hunter era probabilmente l'unico fuori dalla storia di questi altri tre personaggi, ma sempre un chitarrista intelligente, un musicista che riesce a fare anche quello che è necessario fare per cucire, per tessere quello che può essere l'aspetto ritmico. Tra l'altro a Charlie Hunter era delegata sia la parte di basso che quella di chitarra. Aveva le prime due corde intonate sul basso, sul basso elettrico, e il resto era la chitarra. Per cui questo gioco di giro di basso e di assolo di chitarra, che era spiazzante, interessante e di ottimo livello. È una sorta, questa proposta chiamata Oma Dinner, una sorta di ripresa delle intenzioni dei Sex Mob di Steve Bernstein. Infatti spesso quasi tutti i brani sono riletture o arrangiamenti o ironie brani della musica pop, fatte comunque con una sapienza notevolissima e soprattutto estremamente divertenti. Sono musicisti di primo livello e quindi anche il risultato è stato ottimo. Interessante le sonorità del sax tenore di Skerrick, che nel suo fraseggio un po' cialtrone, un po' ostentato, è estremamente comunicativo, estremamente è da prova di grandi qualità tecniche oltretutto. Collocazione era in una malga delle montagne intorno a Saalfelden, quindi un luogo magico, estremamente esteticamente invitante, dove il trio di Sokal ha dato, come dire, spettacolo come sempre, con le sue qualità istrioniche, un fraseggio rhythm and blues, accompagnato peraltro anche da un giovane batterista e un giovane organista, Hammond. Quindi suono antico, del ormai perlomeno che si rifà a generazioni degli anni 60, dell'organo Hammond, era estremamente suggestivo in quella condizione. Peraltro il pubblico era veramente folto, nonostante la collocazione piuttosto complicata anche da raggiungere. Speciale di Radio Città Fujiko sul 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden. Le note di Sandro Baroni sui concerti. Il Shortcuts, questo è continuato successivamente, Shortcuts, il primo concerto è stato di un trio di musicisti austriaci e tedeschi, un trio di improvvisazione, quindi riprende lo schema ormai antico, quindi ormai più che consolidato e poco stimolante tutto sommato, sembra ormai di sentire un qualche cosa che si rifà a un passato, sembra proprio di sentire quasi un gruppo di revival quando si ascolta musica di questo tipo. Comunque erano più che dignitosi, era un gruppo composto da Olaf Rupp alla chitarra, Matthias Müller al trombone e Rudi Lechner alle percussioni. il set successivo è stato probabilmente il più il migliore, il più importante, il meglio riuscito della giornata, ed era l'incontro di Han Bennick, ormai l'anziano batterista olandese, con pianista Uri Caine, ed è un nuovo duo, ormai è consolidato, sono molte volte che suonano insieme, hanno anche inciso un disco, quindi è un incontro ormai, un tracciato ormai percorso. I ruoli sono ben definiti, è interessante vedere anche la differenza tra il ruolo che aveva precedentemente in un duo classico che era con Misha Mengelberg e Han Bennick, e il ruolo diverso che ha assunto proprio anche per le sue qualità pianistiche Uri Caine. Ha un pianismo molto concertato, molto, molto ricco di fraseggi, e quindi si contrappone alla follia inventiva che rimane nonostante l'età, e le molte volte che lo si è potuto vedere, Han Bennick rimane un istrione eccezionale, un musicista straordinario. Quindi hanno dato vita a un set veramente di altissimo livello. Speciale di Radio Città Fujiko sul 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden. Le note di Sandro Baroni sui concerti. Poi si è passati ai main stage nel Teatro Centrale. Il primo gruppo era un progetto progetto guidato da una, diciamo da due musicisti americani. Si tratta di Chris Combe, che ha composto questa sorta di suite, una suite dedicata a dei fatti accaduti, a dei fatti, una rivolta razziale, cioè per ragioni razziali, avvenuta in Oklahoma negli anni 20. E peraltro era stato commissionato questo lavoro, questa suite era stata commissionata proprio dallo Stato dell'Oklahoma, per cui si è svolto, diciamo, per la prima volta, la prima rappresentazione è stata ormai un paio d'anni fa. Hanno anche inciso un disco, appunto, un paio d'anni fa. Qui i musicisti erano gli stessi, il progetto era lo stesso, e appunto le composizioni erano di Chris Combs, il chitarrista, e la conduzione della formazione, del gruppo, era del pianista Brian Haas. E in sostanza questi due guidano un quartetto composto anche dalla batteria di Josh Rainey e dal contrabbasso di Jeff Archberg, al quale però questo quartetto si sono aggiunti un quintetto di fiati, che sono anche quelli più che hanno elaborato maggiormente la parte orchestrale. Sono diversi ben titolati, da cominciare da Steve Bernstein alla tromba, poi anche da Peter Afterbaum al sax tenore baritono, che è anche un ottimo arrangiatore, un altro sassofono Mark Sutherland, quindi una sezione di fiati più che autorevole, poi anche di nuovo al sax tenore Skerrick, quindi una formazione di alto livello. Il tessuto orchestrale non ha dato la percezione di un forte impatto, non aveva una dinamica che potesse giustificare il numero dei componenti della formazione, quindi una parte di una sezione fiati così robusta. E quindi il disco direi che non è stato sicuramente valorizzato da un concerto come questo. È stato di buon livello, ma la dinamica orchestrale ha mostrato i limiti di un arrangiamento piuttosto approssimativo, che non tiene conto delle possibilità dinamiche di una formazione così larga. Concerto successivo, John Medeschi in piano solo. Il progetto era intitolato A Different Time, che è anche il titolo dell'ultimo lavoro prodotto da John Medeschi in piano solo, e che ha una connotazione coerente e un po' malinconica, che riprende le musiche di Satie, o perlomeno le evoca, con queste atmosfere piuttosto nebbiose. Ecco, in questo caso non ha percorso la stessa strada, ma ha proposto altre cose, una rilettura di molti dei classici, di molta musica americana, passando da Gershwin a Monk, finendo anche con certe musiche pop degli anni 60, e poi anche un brano preso dal disco che dicevo prima. E il risultato è una percezione di un pianismo estremamente competente e capace, ma con una difficoltà a capire dove andare a parare nel suo percorso musicale, e quindi è apparso piuttosto piacevole, ma non chiaro nelle intenzioni, quindi non coerente quantomeno. Thank you. Il gruppo ulteriore era affidato, era un quartetto, una sorta di incontro per l'occasione, un quartetto guidato da Franz Hautzinger, trombettista che aveva peraltro anche suonato nei Shortcuts e che appunto aveva suonato con Eiki Iano, che appunto anche in questo caso era presente nella formazione. Si aggiungevano a questi due il basso elettrico di una vecchia gloria del free rock degli anni 70, Jamaline Takuma e Amit Drake alla batteria. Quindi un quartetto, diciamo, anche con musicisti autorevoli. Il drumming e il tiro, diciamo, dell'esperienza delle radici rock o funky di questi musicisti ha anche consentito uno sviluppo sicuramente più godibile che non le esperienze fatte nei Shortcuts. Il risultato è stato quindi anche superiore anche alle aspettative. E probabilmente il gruppo più atteso era il lavoro di Leo Smith, Vadada Leo Smith, con questo suo progetto, Ten Freedom Summers, progetto per il quale peraltro sono usciti 4 dischi l'anno scorso, in questi mesi, negli ultimi mesi, che rappresentano un po' una sorta, nella sua volontà perlomeno di Leo Smith, una sorta di compendio della sua produzione, del suo lavoro di musicista in tutti questi anni, dagli anni 70 in poi quantomeno. E quindi era una formazione che raccoglieva un suo vecchio quartetto che era suo storico, era praticamente il New Delta Acri degli anni 70, il mitico New Delta Acri, con Anthony Davis al pianoforte e Pharrell Acklough alla batteria. E al basso qui un nome diverso era quello di John Lindbergh, anche questo comunque ben titolato musicista che ha avuto un percorso artistico importante e anche qualità strumentali importanti. A questo quartetto si aggiungeva una sezione di archi con 4 cioè con 2 violini, viola e violoncello, quindi un quartetto classico più l'aggiunta di un'arpa. E il tutto avveniva, la performance avveniva sullo sfondo di video proiettati. Il risultato è stato ancora una volta, ha mostrato un limite nell'immaginazione espressiva di Leo Smith. Indubbiamente è un artista che ha delle qualità individuali estremamente elevate, che però non riescono a tradursi in un'organizzazione dei suoni, degli spazi, dei silenzi, della forma quindi espressiva, non riesce a tradursi in modo adeguato. E quindi la percezione complessiva è quella di una sorta di accademismo che non raggiunge comunque dei livelli tecnici sufficienti a giustificarne l'impianto. Thank you. speciale di Radio Città Fujiko sul 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden. Le note di Sandro Baroni sui concerti. Altro gruppo, una piacevole sorpresa, nel senso che probabilmente dopo la complessità, la fatica dell'ascolto della musica di Leo Smith, ha rasserenato senz'altro la platea, un trio guidato da un pianista, Irio Rantala, e poi da un violinista, Adam Baldic, e una violoncellista, Asia Valcic. Quindi sono musicisti che vengono dalla Finlandia, il pianista, Polonia e Croazia, quindi Middle Europa, musica molto melodica, molto di facile ascolto, però ben suonata, e soprattutto il violinista ha dato prova di qualità notevoli. Thank you. Speciale di Radio Città Fujiko sul 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden. Le note di Sandro Baroni sui concerti. La nottata ormai si è conclusa con una formazione recente proposta dall'etichetta Zadig di John Zorn, un gruppo guidato da un chitarrista, John Madoff, che presenta un progetto Zion 80 Jewish Afrobeat, sono musica, una sorta anche questa di suite che è dedicata alle parole, alle liriche di un rabbino che appunto Zion 80 rappresenta questo. La formazione era di tutto rispetto, militavano musicisti del calibro di Matt Dariu al sax alto, poi Ben Holmes, questo giovane trombettista interessante che recentemente insomma ha raccolto l'attenzione anche della critica, Ben Holmes, e Brigham Krause al baritono, poi l'aggiunta appunto di altri musicisti, quindi una formazione di 10 elementi ben nutrita, che ha dato vita a un set godibile di musica, come dire, la Afrobeat, appunto, può essere una definizione abbastanza corretta, musica ebraica però con influenze caraibiche, quindi gente che ballava, grande divertimento. Sicuramente una formazione di questo tipo forse avrebbe anche fatto sperare in una ricchezza della costruzione orchestrale maggiore, anche in questo caso. Si può constatare che una banalità, che scrivere per orchestra non è certo una cosa facile e che sono diverse le orchestre presenti, ma le tessiture, gli arrangiamenti orchestrali si accontentano, diciamo, di alcune semplificazioni che invece altrimenti avrebbero potuto dare anche risultati migliori. Però sicuramente il concerto è stato di grande godibilità, di grande divertimento e di grande anche qualità strumentale da parte dei musicisti. Thank you. Domenica, ultima giornata del Festival di Saalfelden, anche in questo caso si è confermata all'altezza delle aspettative, anzi forse anche meglio. Si è iniziato con una formazione in settetto dell'ultimo progetto, diciamo perlomeno di quello integrato fino ad arrivare al settetto, di Christian Lillinger, batterista che abbiamo ascoltato anche nella formazione con Marcus Royas e Tony Malaby, oltre che al pianista austriaco. La formazione, il progetto, abbiamo inciso, è uscito in un disco di recente per l'etichetta Clean Feed, e ha confermato, anzi, come dire, ha sottolineato il tipo di maturazione del percorso artistico di Lillinger, quindi una forma molto originale, legata naturalmente alle percussioni, ma con una sorta di percorso che attraversa la tradizione del jazz e anche però la musica informale, la musica free. Però è ben piazzato nelle sonorità della tradizione del jazz, specialmente penso al sax tenore di Tobias Delius, che è il musicista forse più anziano di tutta la formazione, che ricorda una sonorità che ricorda più i suoni di Coleman Hawkins che non quelli degli epigoni di Coltrane. Da segnalare anche l'alta qualità del giovane Pierre Borel al sax contralto, si conferma essere una giovane promessa interessante, ottimo anche il vibrafono di Christopher Dell, e comunque quindi un progetto equilibrato, ben riuscito, che ha reso merito alle qualità musicali di Christian Lillinger. Thank you. Poi si è continuato con una situazione decisamente diversa, come spesso accade, quella di cercare di interrompere gli stili e i sapori dei vari gruppi. Ernst Reisinger al violoncello, accompagnato da una collaborazione che ormai dura da molti anni, con Mola Silla alle percussioni e soprattutto alla voce, e al pianoforte da un altro olandese, Herman Frange, pianista che risente così delle influenze del minimalismo, di un certo minimalismo diciamo vicino a quello che può essere anche l'esperienza di Neiman. Il sapore, il violoncello classico di Reisinger e la voce ancestrale di Mola Silla danno una sensazione di opposizione interessante, decisamente ben riuscita, una sorta di evocazione sul tessuto di musica europea, di musica che ricorda poi la musica colta, soprattutto per il violoncello di Reisinger, che viene strappata dalla voce graffiante potentissima di Mola Silla, che ricorda le radici peraltro anche del jazz, in quanto proprio musica africana senegalese. Thank you. speciale di Radio Città Fujiko sul 34esimo Festival Internazionale del Jazz di Saalfelden. Le note di Sandro Baroni sui concerti. Si è continuato con un'orchestra eccezionale, direi, uno dei momenti più importanti dell'intero festival, ed è il progetto Angles 10 in questo caso, quindi 10 elementi, che sta poi per il numero dei componenti del gruppo, quindi Angles 10, precedentemente era stato 9, oppure i numeri cambiano a seconda poi delle varie composizioni. Comunque è guidata questa formazione da Martin Kuchen, che non è un giovanissimo, ormai è un musicista che è già abbastanza consolidato, è svedese, che recentemente si è fatto notare proprio per le caratteristiche che propone questa formazione, che parte una sorta di testimone che viene raccolto da una certa, come dire, musicalità espressa dalla Liberation Music Orchestra, perlomeno dalla prima Liberation, questi temi specialmente spagnoli che vengono rielaborati appunto dagli arrangiamenti di Kuchen, e poi dopo si risentono i sapori anche di McGregor, ma soprattutto di Willem Breuker. Quindi una formazione orchestrale piantata nella tradizione europea e con risultati di una dinamica espressiva straordinaria, brevissimi, una prova eccellente. Quartetto inedito di Brandon, guidato da Brandon Ross, che appare sempre come un ragazzino, ma ormai, se si pensa che i suoi esordi sono stati nel disco di Attica Blues di Archie Shepp alla metà degli anni 70, quindi ha ormai molti anni di attività, con collaborazioni che si sono mosse in tutto l'ambito della musica del free dagli anni 70 in poi. Penso a Tridgill o anche a Steve Coleman, oppure anche a formazioni con le varie esperienze chicagoane. Il gruppo era decisamente eccellente: Ron Miles alla tromba, Stormu Takeishi al basso elettrico, questa sorta di chitarra bassa elettrica, e alla batteria Tishan Sorey. Quindi una all-star che è cominciato in modo abbastanza opaco, un po' manieristico, non si capiva bene che cosa proponesse Brandon Ross, poi ha preso ha preso una certa consistenza e il risultato, diciamo, nella seconda parte del concerto è stata soddisfacente, senza naturalmente però brillare per particolari capacità leaderistiche. Brandon Ross è un ottimo sideman, forse vale la pena di ascoltarlo nelle sottolineature che riesce a dare nelle formazioni alle quali partecipa. Ultimo gruppo, quindi la conclusione del festival, era affidata a un progetto atteso, quello di Hurricane, l'ultima rielaborazione dei classici che ha proposto Hurricane, quindi con una formazione con i soliti collaboratori, peraltro con Ralph Alessi alla tromba, poi naturalmente Chris Pidd al sax tenore, clarinetto e Jim Black alla batteria. Al basso, in questo caso, invece dei soliti collaboratori, c'era la presenza di Mark Elias, o Elias, contrabbassista storico, importante, decisamente molto bravo, con una cavata veramente eccellente, e al violino Joyce Amman. Poi si aggiungevano le voci di Barbara Walker e di Theo Blackman, che appunto le sue vocalità ricorda molto i chansonnier degli anni 30, una voce molto sottile e molto espressiva. Il progetto era dedicato alle musiche di Gershwin, con un'iniziale operazione sulla Rhapsody in Blue, che perlomeno ha dato una spinta maggiore a quella che può essere la registrazione in disco che è appena uscito per l'etichetta Winter and Winter, e quindi il risultato è eccellente, una musica confacente anche a quello che può essere un'elaborazione da parte della musicalità di Hurricane. E poi anche diverse song che hanno trovato una loro vena interpretativa anche soprattutto nelle voci dei due cantanti, e quindi una ottima conclusione per il festival, stiamo ad attendere l'anno prossimo per vedere quali altre proposte riuscirà a proporre questa direzione artistica, che si è confermata eccellente proprio per le scelte azzeccate dei musicisti che attualmente sulla scena internazionale stanno proponendo le cose più interessanti. Thank you. Saulfelder, Saulfelder. Saulfelder, Saulfelder. Saulfelder, Saulfelder. Saulfelder, Saulfelder.